sono pioggia. E come il mare vado via, che la lunga strada del tempo io l'ho vissuta, che ha accettato il principio fino a capire me stesso, che ho odiato ed amato come tutti del resto la mia vita. No, proprio non si può dire che sono stato un modello di fedeltà, di coerenza, di donna candida e smarrita. Non sono mai stato il tipo io di accettare ordini e compromessi con uomini, con donne e con i santi stessi. Io ho cercato di dare e dare e dare con molta sincerità, ma i sentimenti e le cose portano in sé contraddizioni. Poteva essere amore per te, per te, per te, ma l'amore ha molte facce. Scusami adesso se non te l'ho saputo dare. Ed anche nel lavoro molte volte ho mentito, ho giocato per pigrizia, per soldi o per paura. Ma ora che sono pioggia e come il mare vado via, quella cosa che resta la vedo è sempre amore. È sempre amore.